Sì, innanzitutto facciamo parte di un club dove la X si usa a iosa perché praticamente tutti i punti di interscambio simili al nostro in Europa c'hanno dentro una X, che sia Londra, che sia Amsterdam, per finire i posti più lontani dal centro, sono tutti exchange, cioè punti dove avviene un interscambio. I punti di interscambio sono nati tanti tanti anni fa, quando la rete era piccola, cioè quando la rete aveva poca gente, nel momento, soprattutto nel momento in cui la rete è passata da un qualche cosa sovvenzionato dal governo americano a un qualche cosa che camminava con le sue gambe. E quindi i punti di interscambio erano i luoghi fisici dove arrivavano le linee degli operatori più grandi, i quali su una base di parità portavano il loro traffico e prendevano il traffico degli altri. Ci si scambiavano proprio i dati. Pro proprio i bit, I i bit. packets, Sì, sì, sì, sì. quelli che sono la merce comune su internet, in modo diciamo assolutamente trasparente, no? Quindi nessuno va a vedere il contenuto dei pacchetti e questi viaggiano da un mittente a un destinatario, intermediati da operatori e da punti di interscambio. In Italia, che eravamo e continuiamo a essere alla periferia dell'impero, Mix, soprattutto, è nato da un'esigenza, prima che era quella di dire: ma perché il mio traffico Milano su Milano o Milano su Roma o così via deve arrivare fino alla West Virginia e poi tornare indietro? Ovviamente mettendoci alcune centinaia di millisecondi. Perché non lo facciamo in Italia su Italia? Sto parlando di anni, stiamo parlando 90. anni 90, Sì. quando la rete è cominciato a esplodere anche da noi e quando i costi delle linee di comunicazione, soprattutto quelle internazionali, erano stratosferici. Quindi Mix è nato da questa esigenza ed è nato in primis come un fenomeno spontaneo, come proprio un centro di libero scambio, di mutuo assistenza da parte degli operatori. Quando parliamo di operatori parliamo di quelli che poi banalmente danno l'accesso ad internet alle aziende e alle famiglie. Sì, adesso. Anch'io ho preso l'abitudine di dire operatori, che è la nomenclatura del codice delle Sì. comunicazioni. Una volta ci chiamavamo, in qualche modo ci chiamiamo ancora ISP, Internet Service Provider, e la prima decina, dozzina di Internet Service Provider che erano operativi nel 96, in qualche modo si sono federati per fare questo scambio. Ripeto, su una base volontaristica.